Pronto Salute. I grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi. Un cordiale buongiorno, bentrovati all'ascolto di Pronto Salute. Oggi e domani parleremo di sclerosi multipla. L'ospite, il professore che risponderà alle vostre domande, è il professore Carlo Pozzilli, responsabile del Centro Sclerosi Multipla dell'Ospedale Sant'Andrea, Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Buongiorno, professore. Buongiorno. Cominciamo con la signora Laura, a 50 anni, ci chiama dalla provincia di Torino. Signora, prego. Buongiorno. Vorrei chiedere qual è la differenza tra sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica? Ringrazio la signora per questa domanda che trovo molto importante, perché bisogna fare subito una bella distinzione fra queste due malattie che hanno in comune solamente la prima parola sclerosi, ma sono due malattie completamente diverse del sistema nervoso e colpiscono persone diverse. La sclerosi multipla è una malattia che colpisce prevalentemente giovani, la sclerosi laterale amiotrofica una malattia delle persone adulte e anziane, ma la prognosi è anche diversa. La sclerosi multipla è una malattia che dura anni, la sclerosi laterale amiotrofica, proprio perché colpisce persone anziane, ha anche una durata, un'aspettativa di vita molto minore. Quindi è chiaro che è importante fare una bella distinzione, perché una è una malattia infiammatoria, la prima, la seconda è una malattia degenerativa, e purtroppo hanno in comune questa parola sclerosi e molto spesso le persone si confondono. Sì. Né naturalmente nei due tipi, nella diversificazione anche le terapie sono assolutamente diverse. Proprio un'altra malattia. Professor Pozzilli, le giro la domanda che ci ha posto Giuliano da Brindisi, a 45 anni. A questo punto chiede quali sono gli esami clinici in grado di fornire una diagnosi certa di sclerosi, in questo caso multipla. Ecco, nella sclerosi multipla è importante innanzitutto una diagnosi clinica, quindi chiedere al paziente i disturbi che ha avuto, e sappiamo che questa malattia si può manifestare in mille modi diversi, quindi è importante questo. Per quanto riguarda gli esami strumentali, oggi ha assunto un ruolo fondamentale la risonanza magnetica dell'encefalo, della testa, ma anche la risonanza magnetica del midollo. Inoltre vorrei spezzare una lancia a favore della puntura lombare, che è quella puntura che permette di raccogliere un pochino di liquido cerebrospinale, che è quel liquido in cui noi andiamo a valutare se è presente l'infiammazione. È un esame molto importante per la diagnosi, e purtroppo si parla sempre con paura di questo esame perché ci sono delle leggende. In realtà è un esame che si fa in day hospital, poche ore, e il paziente ritorna a casa senza nessun problema. In effetti è una di quelle patologie che insomma terrorizzano anche solo a pronunciarle. Professore, Claudia da Salerno, 44 anni, le chiede se la sclerosi multipla colpisce più le donne, e qualora questo accadesse perché? Allora, è vero, consideri che le donne vengono colpite, 2 su 3 sono donne, quindi 2/3 della popolazione è femminile, e anche se sono colpite più le donne, però la prognosi è migliore nelle donne, e questo è un fatto curioso. Il perché probabilmente è legato a fattori genetici e ormonali, e anche nell'evoluzione della malattia il fatto che le donne hanno una prognosi migliore rispetto agli uomini è legato agli ormoni sessuali, e quindi io direi che è quelli che condizionano sia, diciamo, la differenza nella percentuale di persone affette. Abbiamo la signora Anna, ci chiama da Firenze, 43 anni. Buongiorno a lei, signora. Buongiorno, sì, buongiorno professore. Buongiorno. Io vorrei sapere, è vero che durante la gravidanza la sclerosi multipla sembra che scompaia, e perché? Grazie. Allora, non scompare la sclerosi multipla, ma sicuramente si attenua, e non compaiono le famose ricadute della malattia durante la gravidanza, e questo va di conseguenza con quello che dicevo precedentemente rispetto agli ormoni femminili, cioè l'influenza degli ormoni sessuali femminili che vengono prodotti in modo cospicuo durante la gravidanza, e quindi hanno un effetto immunomodulatore, quindi bloccano il sistema immunitario e quindi non osserviamo mai ricadute durante questo periodo. Più critico invece è il periodo dopo la nascita del bambino, per cui in quel periodo, il cosiddetto puerperio, nei primi 6 mesi, si possono di nuovo avere delle ricadute della malattia e quindi sarà opportuno sentire il neurologo per iniziare una prevenzione. Quindi è praticabile l'ipotesi comunque quando subentra la menopausa di avere una copertura minore rispetto a quella che è la sclerosi multipla? È vero, infatti alcuni studi stanno dimostrando che la malattia è meno attiva e quindi durante poi il periodo della menopausa, e quindi è importante che però venga controllata durante la fase in cui invece c'è un'iperproduzione degli estrogeni. Professor Pozziglia, la volta della signora Lucia ci chiama da Torino, il problema riguarda il figlio che ha 40 anni. Signora, buongiorno a lei. Buongiorno professore. Pronto? Pronto, sì, signora, la prego. Sento signora. Buongiorno professore, mi scusi, io volevo avere delle delucidazioni sulla cannabis, perché mio figlio è informato che in Olanda, in Svizzera, in Inghilterra già si usa per... diciamo per avere meno stanchezza, meno i muscoli che funzionano meno, diciamo funzionano un pochino meglio. Per quale motivo in Italia non viene ancora usata? Ecco, forse manca l'anello, il tassello, allora, rispetto alla diagnosi comunque di sclerosi multipla del figlio della signora, perché altrimenti sembrerebbe quasi di poter utilizzare la cannabis per questioni legate soltanto alla tonicità muscolare. Certo. Allora, ringrazio la signora perché mi sto occupando da qualche anno di questo argomento, soprattutto abbiamo condotto delle ricerche qui a Roma specifiche sulla cannabis nella sclerosi multipla. Allora, prima per far chiarezza, è che la cannabis sembra essere utile per alleviare alcuni sintomi della malattia, ma non per bloccare la malattia. Alleviare questi sintomi, non tanto la stanchezza, perché non ci sono dati che a supporto di questo, ma soprattutto il dolore. E questo è anche il motivo per cui viene utilizzata in altre patologie, mi riferisco alle patologie oncologiche, come antidolorifico. A volte nella sclerosi multipla sono presenti dei dolori, soprattutto dolori agli arti inferiori, e quando sono presenti questi dolori, crampi, un aumento del tono muscolare, in questi casi la cannabis si è mostrata utile. Si è mostrato utile, però vanno individuati questi casi. In prodotti a base di cannabis, è vero, sono reperibili attualmente in alcuni paesi, ma non in tutti i paesi della Comunità Europea, sono reperibili in Canada, soprattutto questi preparati spray che sembrano essere più assorbiti più facilmente e quindi essere più efficaci. In Italia l'Associazione Sclerosi Multipla sta prospettando uno studio di una sperimentazione multicentrica italiana proprio per valutare in maniera scientifica l'efficacia su alcuni sintomi della cannabis. Io penso che comunque non mancherà molto prima che la cannabis possa entrare anche nel mercato italiano, certo, come farmaco specifico per alleviare certi sintomi della sclerosi multipla. Però dobbiamo essere molto attenti, perché sappiamo che d'altra parte la cannabis può avere degli inconvenienti, per esempio può dare dei disturbi a volte di eccitazione, di disturbi anche dal punto di vista psicologico, certo. Quindi è un farmaco, perché io lo chiamo farmaco, che va sicuramente dato sotto prescrizione del neurologo specialista in questa malattia. Perché comunque è psicotropo, insomma. Infatti. Cesare Piacenza, 59 anni, buongiorno a lei, prego. Buongiorno. Quali sono le cure più aggiornate per la sclerosi multipla? E poi vorrei anche conoscere dove si praticano. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei, perché devo dire che esistono ormai da circa 10 anni dei centri specializzati in tutte le città italiane per dei centri specializzati per la cura della sclerosi multipla. Sul territorio ce ne sono circa 200, ci sono centri più o meno attrezzati, però conviene assolutamente rivolgersi ad un medico di un centro per curare questa malattia e non a un qualsiasi specialista di neurologia, ma devono essere specialisti nei centri specifici, anche perché solo in questi centri è possibile avere quei farmaci costosi che oggi aiutano molto per la cura di questa malattia. Quindi, per ritornare alla prima domanda, quali sono le terapie? Oggi le terapie sono soprattutto a base di interferone beta, a base di copolimero, a base di immunosoppressori, fra tutti, diciamo, fra i quali devo citare il mitoxantrone e la ciclofosfamide. Ecco, professora Pozzilli, per rispondere alla signora Michela da Trieste, 36 anni, a proposito delle cure per la sclerosi multipla, le chiede, soprattutto per quelle nuove, se sono gratuite. Sì, ecco, sono gratuite nei centri specialistici di sclerosi multipla, quindi mi riallaccio al discorso di prima, cioè se la persona affetta da sclerosi multipla va in un centro specialistico, tutte le cure sono gratuite. Questo bisogna ringraziare il nostro sistema sanitario nazionale, ogni tanto bisogna ringraziarlo, perché esistono alcuni paesi dove invece il sistema sanitario nazionale non provvede a queste terapie e quindi sono terapie, come dicevo, molto costose che alcuni non assolutamente sono al di fuori della portata del comune cittadino. Certo. La signora Margherita, professore, ci chiama dalla provincia di Napoli, ha 49 anni. Signora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno professore. Allora, io ho 49 anni, soffro di sclerosi multipla da 25 anni. È stata diagnosticata una decina d'anni fa come forma benigna, però. Dopo i primi trattamenti col cortisone, che hanno sempre avuto buoni risultati senza darmi nessun fastidio, alla fine i neurologi del centro, appunto, che io contatto, mi hanno dato l'interferone. L'ho usato per 5 anni, non l'ho mai tollerato. Alla fine, per i disturbi che mi dava, ho voluto interromperlo. I neurologi hanno detto che dopo 5 anni il protocollo non prevedeva la continuazione, quindi potevo eventualmente sospendere. Una risonanza magnetica di controllo non ha notato delle aree captanti e soprattutto è sovrapponibile a quella precedente. Come mi devo regolare? Posso continuare a non prendere l'interferone? Allora, non esistono protocolli ben definiti in questo, cioè la durata della terapia con interferone va valutata per ogni singolo caso. Indubbiamente, lo posso dire da quello che lei afferma, sembra in realtà che la sua forma sia una forma benigna. Ci sono una definizione di sclerosi multipla benigna, e cioè una sclerosi multipla che dopo 10 anni dall'inizio della malattia non dà problemi importanti, cioè non crea disabilità, non crea difficoltà nella deambulazione. Quindi una malattia iniziata 10 anni fa che permette di svolgere una vita normale, già possiamo considerare una forma benigna. In questi casi l'interferone non è necessario. L'interferone è un giudizio individuale. È chiaro che se per esempio durante il periodo dell'interferone si vedevano dei benefici, cioè meno ricadute rispetto al periodo prima dell'interferone, ma nel caso suo mi sembra che l'interferone abbia provocato solamente dei problemi pericolosi, cioè pesanti effetti collaterali. E sappiamo che questo è uno dei limiti della terapia dell'interferone, certo, perché ha sicuramente grandi vantaggi nel prevenire la progressione della malattia, ma ha sicuramente degli effetti collaterali che a volte sono insopportabili. Quindi, per concludere, direi sicuramente che può sospendere la terapia con interferone. Allora, tra poco il giornale radio, ci sentiamo domani per parlare ancora col professor Carlo Pozzilli di sclerosi multipla. Il numero verde 800 86 12 43, attivo dalle 8.30 alle 10.30. Grazie a Massimo Vasciaveo per l'assistenza tecnica, da Lucrezia Scardini grazie per l'ascolto. A domani, Radio 1 11.45.